Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar Giannino, siamo qui alle 8:19 minuti. Al cognome, caro Marco Alessandro Milan. Perché? No, no, il cognome da distanza. Comunque, no! Oggi, no. 24 maggio. Per te che sei formato con i salesiani è un santo di riferimento, ah, Santa sì? Maria Ausiliatrice, certo. Per i salesiani è la Madonna per definizione, non solo per i salesiani, insomma per tanti paesi del mondo, la Polonia, l'est europeo eccetera, e oltre a Santa Maria Ausiliatrice, e oggi vedremo se le scuole cattoliche paritarie devono o no, è l'argomento un po' della puntata dell'ospite, quindi Santa Maria Ausiliatrice, vediamo se tutela la causa delle scuole paritarie cattoliche o no nel nostro paese, anche con Renzi Scouts. Santo Dio, Santa Madonna, pensaci tu. Però tra gli altri santi diffusissimi, Rogaziano, Gennadio, Zoello, Servolo, Uberto, San Simone Stilita. Servolo, quindi, Servolo non è male. È piccolo Servo, poi in realtà Servolo. Pensa se chiamassi mio figlio Servolo. Servolo. No. Poi è una figlia, come fai a chiamare? Eh sì, quella è in arrivo. Ma pensa uno che chiama un figlio Servolo, papà, che cosa si porta a casa, per così dire. Comunque, oggi la giornata internazionale dei parchi e dei giardini. Nonché la terribile entrata nella prima guerra mondiale dell'Italia. Ma queste giornate internazionali ma non si possono abolire. Oggi, ma infatti oggi io le cito apposta perché i parchi praticamente e i giardini. C'è la giornata internazionale degli stuzzicadenti. Viva i parchi e viva i giardini, anzi, più parchi e più giardini, ma però. La giornata internazionale, insomma, anche no. Ringrazio tutti coloro che continuano. Sai che mi arrivano i suggerimenti come andare al lavoro, visto che alle 5:30 la metropolitana non va, mentre a Londra andrà 24 ore su 24. Suggerisco anche con l'elicottero della Rai. Con l'elicottero. Chi mi suggerisce Rai. Questo di venire al lavoro? Va bene. Allora, caro Oscar. E questo vedi però, il canone in bolletta morde, perché la gente capisce che la Rai in realtà continua a buttare un occhio di soldi. Sì, spero che non porti i giornalisti però al lavoro alle 5 del con mattino. Con l'elicottero. Allora, oggi parleremo di questa cosa che a Ferrara fa discutere, tanto che avremo ospite l'arcivescovo di Ferrara, quindi Cardinal Giannino, mi raccomando, Oggi avremo... Tornerò, ti adoriamo Ostia Divina, ti adoriamo Salvatore. No. Però Monsignor Luigi Negri, che ha preso carta e penna, ha scritto a Renzi in persona, perché... Perché per il referendum, no. Il comune di Ferrara ha chiesto gli arretrati dell'IMU alla chiesa di Ferrara, alla diocesi, per le scuole paritarie considerate commerciali, secondo una sentenza della Corte di Cassazione che riguardava le scuole di Livorno. E quindi devono pagare. Vi chiederemo se è giusto secondo voi che paghino. Che ne pensi, Oscar? No, penso che la questione è delicata, perché naturalmente le scuole pubbliche pagano l'IMU. No, come ovvio. No, da una parte. Sì, questo è esatto, è da chiarire. Scuole pubbliche ovvio, non pagano l'IMU. Non pagano, non è che lo Stato paga a se stesso. Primo. Secondo, c'è la questione del... di ciò che significa il concetto della scuola paritaria. Quanto scuola paritaria, cioè che deve aderire a standard pubblici ed è vigilata pubblicamente, è un pezzo fondamentale e totalmente assimilato alle scuole pubbliche di Stato. Terzo, la questione diventa, ma le rette, con le rette si fa un surplus di utile commerciale oppure a malapena si pareggiano i costi, perché molte non riescono neanche a pareggiare i costi. Quindi questo è un po' il punto fondamentale. Questo è il tema fondamentale, perché uno potrebbe dire, ma certo, prendono la retta e quindi è giusto che paghino l'IMU. Però chiariamo una cosa, secondo le scuole paritarie, il fatto che un milione circa di studenti vadano alle scuole paritarie, questo toglie costi allo Stato, perché allo Stato... costa circa 6.000 euro l'anno, dicono le scuole paritarie, ogni studente. Quindi sono costi fatti risparmiare allo Stato. Cioè teniamo conto di tutto. A dire la verità, il governo fece una specie di nota interpretativa dopo la sentenza della scorsa estate della Cassazione su Livorno, che diceva no, dovete pagare, e su questa base i sindaci chiedono gli arretrati. E la nota interpretativa del governo era... purché le rette non eccedano il costo medio pro capite che nel sistema pubblico c'è per la scuola. Quindi era proprio un po' questo, era un po' azzeccagarbugliesco, se devo dire la verità. Esatto. Comunque chiamateci su questo, 800 24 0024. Però caro Oscar, io non lo so, da qui a ottobre io ho fatto prima una sorta di proposta nella segna stampa ai direttori di giornali di abbassare un po' i toni. Nel senso che da qui a ottobre, se oggi si inizia a parlare dell'Ampi, poi tireranno in ballo, non so, ci saranno le fanta interviste a Garibaldi come avrebbe votato I mille, Giolitti, Cavour. Cioè, di che se partiamo così, come arriviamo a ottobre sulla campagna referendaria? Non lo so, perché l'informazione naturalmente non lo farà. Il problema è che la politica, cioè insomma, la politica, il governo è partito con il piede tutto giù sull'acceleratore, Quindi come si fa a fare la moratoria unilaterale? Sarà così, secondo me, invece. Cioè, noi avremo fino a ottobre esattamente un tono sempre più alto, accuse sempre più gravi, pesanti. Voleranno le mani, credo. Non me lo auguro, ma temo che possa avvenire, visto come si è partito in quarta. Cioè, e si è partito in quarta perché il nostro compito in fondo è anche un po' questo, porci il problema, no? Se da oggi il governo è partito così, perché lo fa? Visto che c'è un turno amministrativo prima, ci sono tante questioni aperte in Europa, eccetera, ci sarà una risposta a questo problema che è collegata esattamente a questo. Cioè è anche un'operazione per tentare di sviare l'attenzione rispetto al risultato delle amministrative, che è aperto in molte città, potrebbe non essere affatto univoco, potrebbe non essere altrettanto favorevole al governo come il governo si aspetta. Non lo so, però certo, la politica non agisce a caso, ti pare? Esatto, tra l'altro... proprio ieri Renzi invece ha detto che cosa? Ha detto che l'Italia è il paese, com'è, senti qua. Si lavora concretamente per rendere un po' più semplice l'Italia. La mia tesi è che l'Italia è il paese più figo del mondo. Lo so che non funziona quando lo racconti così, perché funzionano soltanto quelli che con aria intellettuale e volto teso dicono abbiamo un sacco di problemi, le cose non vanno. Insomma, invece questo è il senso poi dello storytelling. L'Italia è il paese più figo del mondo. E vedi, il problema è che mette anche l'informazione, e questo il fine di questa campagna, non so quella referendaria, perché chi obietta a questo modo di impostare la faccenda diventa automaticamente il gufo. Quindi aboliamo i dati, non è vero che cresciamo meno degli altri, non è vero che abbiamo la disoccupazione giovanile, non è vero che condanniamo il 71% dei maschi fino a 90 anni, non si può dire, perché bisogna dire che siamo fighi, e siamo fighi, chiudiamo bottega e andiamo a trasmettere Topolino, però a quel punto. C'è da dire che oggi sul Corriere della Sera, io spero che questo chiuda definitivamente la questione, parla il presidente dell'Ampi, Smuraglia, su questa cosa del referendum, un partigiano vero secondo la definizione moderna, perché ha 92 anni, ha combattuto eccetera, e dice non è vero che non sono liberi di votare all'Ampi, possono votare quelli gli iscritti all'Ampi come vogliono, liberamente, semplicemente non si possono fare i comitati per i sì all'interno dell'Ampi, è stato deciso così dal comitato centrale dell'Ampi. Sì, hanno votato al congresso a maggioranza schiacciante. Quindi. Esatto, questo spero. Non è che si chiuda la questione. No, figurati. La questione Ampi. Sentiamo Marco che ci chiama da Caserta. Buongiorno Marco. Buongiorno. Salve, io volevo intervenire per quanto riguarda l'IMU sulla scuola, per le scuole paritarie che ho sentito prima che le parlavate lei e Giannino. Sì, certo, come no. Per me praticamente è giustissimo che la pagano, primo perché le loro rette sono equiparate a quelle delle scuole paritarie normali, poi perché loro prendono dei contributi come tutte le scuole paritarie hanno da parte dello Stato, che sono, io lo dico per esperienza diretta perché avevo mia moglie che aveva una scuola. Quindi praticamente tutte le scuole paritarie alla fine anno prendono dei contributi da parte dello Stato. Certo. Quindi io non capisco. Ma loro dicono, nel computo di tutto quello che lei dice, è tutto giustissimo, loro dicono anche che gli studenti che vanno alle paritarie permettono di far risparmiare allo Stato costi 6.000 euro l'anno per ogni studente che va da loro. Però le faccio le... Cioè, perché no, questo per completezza. Doveva pagare l'IMU e loro non la vogliono pagare. Questo non mi sembra giusto. Cioè, chi è che non ha una scuola paritaria fatta da un cittadino privato lo paga lì. No, ma è chiaro che questa la sentenza vale per tu, cioè non discrimina paritarie cattoliche da paritarie. Ma io credo che loro come scuola cattolica, cioè nel senso perché appartengono alla Chiesa, non vogliono pagare l'IMU, ma un cittadino privato che apre una scuola privata, l'IMU la paga, perché esatto. Se il proprietario dell'immobile la paga, punto e basta. Io devo dire che il nostro ascoltatore pone una questione essenziale. Cioè che si lamentano solo le scuole paritarie cattoliche. No, dice. Le scuole paritarie cattoliche invocano il diritto di non pagarlo e la stragrande maggioranza non lo paga. Non so se è chiaro. Se lo fa un privato, clic clic arrivano. Chiudono, ecco. Chiudono. Forse le scuole paritarie cattoliche sono anche numericamente maggiori e quindi hanno una maggiore forza di comunicazione, di farsi sentire. Ma dietro c'è l'equivoca interpretazione di chi paga e chi non paga sugli edifici annessi al culto se sono a fini commerciali. Questo è il punto di fondo, no? Però ripeto, è inequivoco che se c'è una paritaria ci sia un privato, e come dice il nostro ascoltatore, la paga è muto, cioè se solo osasse dire io non pago perché comunque col contributo non ci rientro e ci rimetto, che viene dallo Stato, arriverebbe la sirena. Qui giustamente però tu hai fatto notare, Oscar, interviene la questione del concordato, l'idea di dire ma noi siamo esenti perché svolgiamo una funzione anche religiosa, eccetera. E questa è il discrimine giusto o non giusto, non sto dando il giudizio. Diciamo che ci vorrebbe un'interpretazione inequivoca, che però non c'è, perché la politica su questo ha un po' esitato a darla, perché ripeto, c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha detto pagate. Su questa base i sindaci dicono non ci pagate gli arretrati, andiamo. Il governo dice ma sulla base però del fatto che entro il contributo pro capite annuo, dovrebbe valere anche per i privati però che hanno una scuola paritaria, invece non vale per i privati, vale solo per quelle ecclesiastiche. È chiaro. Registro per dare il quadro completo che anche il sindaco di Ferrara, anche ieri a effetto giorno da Simone Spezia, è il primo che pur avendo chiesto i soldi alla diocesi, dice ha qualche perplessità a dire beh effettivamente qui non è un immobile a stretto uso commerciale per cui non si dovrebbe discutere, è una scuola, quindi la scuola paritaria effettivamente svolge un ruolo che non è si può dire a stretto fine commerciale, no? E quindi anche il sindaco di Ferrara dice sì effettivamente qualche perplessità ce l'ho anch'io pur avendo chiesto i soldi in base a questa sentenza. Insomma la vicenda non è per nulla semplice. Ci chiedono ancora ma le scuole statali pagano l'IMU? No. Le scuole statali non pagano l'IMU, gli edifici statali stiamo no. parlando di quello che devono i privati che gestiscono scuole paritarie, cioè che stanno nell'offerta pubblica perché invigilate, perché adeguati standard di offerta devono essere da loro proposti e approvati dalle autorità della scuola pubblica. Tanto che non si parla più, il termine scuola privata dovrebbe essere abolito, anzi è abolito, si chiamano scuole paritarie, perché pur essendo scuole non pubbliche sono pubbliche, scuole paritarie insieme a quelle gestite dallo Stato dell'offerta pubblica di formazione. Esatto. Laura ci chiama da Milano, buongiorno Laura. Sì, buongiorno. Io volevo sottolineare questo aspetto che tutte le volte che sento parlare di scuola paritaria non emerge mai. Avete appena detto che la scuola paritaria fa parte pienamente del tessuto scolastico del paese e deve offrire un'offerta, deve dare un'offerta formativa vigilata, e su questo potremmo dire tante cose, comunque vigilata dagli organi dello Stato. E il contratto degli insegnanti? Perché la scuola paritaria offre lo stesso diploma o lo stesso titolo di studio della scuola pubblica, però gli insegnanti non hanno le stesse condizioni devono avere lo stesso titolo di studio della scuola, degli insegnanti della scuola pubblica. Non hanno le stesse condizioni contrattuali, in che senso? Uno fa il contratto col pubblico e le scuole paritarie faranno il contratto con la scuola, è un contratto tra privati. Sì. Il contratto di riferimento delle scuole paritarie, ce ne sono diversi, è un contratto svantaggioso sia economicamente che in termini contrattuali, proprio di diritti del lavoratore. Le faccio un esempio, quindi il contratto Agidae offre la maternità pagata all'80% e non al 100%, per esempio. Ma quindi lei che cosa dire? Cioè, visto che noi stiamo questo parlando per dire limo, che cosa, esatto Laura, per dire che, cioè lei dice che nelle scuole paritarie il contratto è mediamente svantaggioso? Il contratto è non lo dico io, è un dato di fatto. Però io dico faccio su internet e cercando il contratto Agida o il contratto all'insegna. Vabbè, non la prenda come una provocazione, ma uno non è obbligato a firmare un contratto con una scuola paritaria, cioè è un contratto tra privati e quindi capisco, però è un contratto tra privati, però se la scuola è paritaria e offre lo stesso titolo di studio, dovrebbe essere lo stesso contratto, lo stesso tipo di contratto, perché l'insegnante che prepara mio figlio perdone, la sua obiezione radicalmente arriva alla seguente conclusione. Lei non lo dice, ma è così: se ci fossero gli stessi contratti non avrebbe alcun senso né possibilità per un privato offrire una propria offerta anche con regole contrattuali diverse, perché diventa esattamente uguale alla scuola pubblica gestita anche dallo Stato. Ma lo dico senza polemica, lo dico perché la facoltà di avere il contratto diverso, naturalmente nell'ambito dei diritti garantiti in Italia, non stiamo parlando di sfruttamento, però distinto, come dice lei, rispetto a quello pubblico della scuola, è uno dei motivi per cui ha senso che ci sia un'offerta privata, finché la vogliamo tenere in piedi. Se no, dobbiamo dire tutto uguale e allora è solo lo Stato che gestisce. Comunque, Laura, la ringraziamo, ha posto un'altra problematica che è un elemento di discussione, se vuole, anche se il tema è un po' diverso, cioè paghino o no l'IMU. Antonio ci dice qualcosa da Roma, poi dopo la pubblicità avremo il vescovo di Ferrara, che ha scritto a Renzi dicendo non possiamo pagare, non è sbagliato. Antonio, lei da Roma che ci dice? Sì, ecco, esatto, vi dico una cosa credo interessante, che esattamente nel mezzo fra il vescovo, che avrà la sua versione chiaramente da vescovo, e la sindacalista che è intervenuta qualche secondo. Il tema innanzitutto... Non ha detto che era una sindacalista, però si è capito, professionisti. Comunque il tema è centrale, allora è molto semplice, innanzitutto quando parliamo di scuola paritaria, e voi che siete giornalisti seri dovete sottolineare, parliamo di servizio pubblico. L'abbiamo detto. No, perché nel lessico anche i nostri politici fanno una confusione estrema. Perfetto. La seconda cosa, che da persona che crede nella scuola paritaria cattolica sottolineerei e farei una critica, diciamo, al vescovo che interverrà fra pochino, è un tema molto anche qui semplice, che però viene comunicato malissimo. Sì. Non è tanto il tema della libertà della scelta educativa, che rimane centrale, sancito in migliaia di dichiarazioni internazionali, eccetera, eccetera. Ma qui il tema che bisognerebbe sottolineare è di semplice offerta economica di un sistema, diciamo, fra virgolette, occidentale, passare il termine sano del termine, quindi un sistema che offre più servizi, che offre più offerte, scusate il gioco di parole, al pubblico, ma soprattutto è un tema di sostenibilità economica, cioè lo Stato risparmia, cioè questo va sottolineato risparmia in un'ottica ampiamente sociale, perché nelle scuole paritarie, al di là se siano ovviamente principalmente l'impianto cattolico, però questo entra poi in altri temi di verifica, se queste scuole sono degli indottrinifici o invece sono scuole dove viene a parlare il rabbino, dove viene a parlare l'imam, e c'è un'ampia serenità sui temi importanti, diciamo, così, di formazione. Vabbè, Antonio, però si fermi lì però, perché sennò esentiamo dall'IMU e dall'ICI e dalle tasse anche tutti i privati ecclesiali che gestiscono scuole paritarie, punto. Però quello che non posso capire, non ci arrivo a capirlo, è perché non devono pagare, solo, sia pure se non la stragrande maggioranza, quelle religiose, le diciamo, paritarie religiose. Ecco, molto semplice. Va bene, e questa potrebbe essere la prima domanda a Monsignor Negri. Perché come offrono un'offerta positivissima e ci rimettono probabilmente la stragrande maggioranza, cioè quelli gestiti da enti ecclesiali, lo saranno anche i privati, non è che credo che quelli stampano denaro, no? Va bene, tra poco con il vescovo di Ferrara. Non sto parlando dei diplomifici, prima che mi si dica. Quelle scuole paritarie, come quella del primo ascoltatore che ci ha chiamato, dicendo mia moglie è una scuola paritaria non religiosa, però deve pagare regolarmente l'IMU, tra poco. Allora, caro Oscar, alle 8:41 minuti, eccoci qui. Vogliamo dare il benvenuto a Monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara. Buongiorno, Monsignor Negri. Buongiorno, grazie. Che ha scritto, prendendo carta e penna, ha scritto al Presidente del Consiglio. Noi stavamo già discutendo di questa sua scelta di scrivere, in pratica. Perché ha scritto e ci spieghi perché non potete pagare l'IMU o non volete pagare l'IMU? Innanzitutto rispondo che nella linea della politica intrapresa dai governi precedenti e ribadita da questo, fino alla solita sentenza creativa della Corte di Cassazione, noi non siamo tenuti. le parrocchie che hanno affittato parte dei loro stabili a delle scuole che non possono essere rubricate sotto enti di profitto, non sono mai state tenute al pagamento di queste cose. E perché dice sentenza creativa, monsignore? Sentenza creativa perché è la solita sentenza che è venuta in mente a un gruppetto di giudici su una questione particolarissima dell'assessore di Livorno e che ha ribloccato tutto il paese, ma noi siamo abituati a questi salti. Io non ci sto, voglio che il governo dica qualcosa. Chi è il governo? Il governo è Renzi. Mi spiego, non ditemi che è qualcun altro, Renzi si occupa di tutto, dalle ferrovie all'amministrazione al divertimento. Quindi a chi dovevo scrivere? Spero che mi risponda, non credo che mi risponda, ma io non ho posto solo questo problema, che pur nella sua drammaticità è nazionale, quindi non c'entra solo Ferrara. Sono partito da Ferrara perché io sono vestito lì e devo anche dire che il sindaco di Ferrara è stato esemplare. Quando io mi sono mosso ha detto dobbiamo ripensare tutto. Allora, questo è un problema nazionale, ma che ne copre un altro che è indecente ormai che non venga affrontato, quello della libertà della scuola, della libertà di educazione. Invece di aprire un pluralismo effettivo per i giovani che stanno andando a schifio, si diceva una volta, perché non hanno proposte, ci mettiamo, invece di fare un'azione di lancio positivo della scuola, cosa facciamo? Ci mettiamo lì a prendere 100.000 euro da una parte, 100.000 euro per... Però lei, monsignore, se non le risponde Renzi, lei comunque non paga, cioè la diocesi paga o no? Ah, per il momento no, abbiamo fatto tutti i ricorsi perché noi le leggi le sappiamo, non dico come loro, ma meglio di loro. È prevista una serie di passaggi e ci diranno qualcosa. Qualcuno alla fine dovrà dire qualcosa. Però prima... Perché se nessuno dice niente, vale il fatto latino, qui silet consentire videtur. Ecco, ci rinfreschi la memoria perché io il principio del silenzio ha senso. Se uno tace dà ragione al suo interlocutore. Però monsignore Oscar Giannino faceva prima un'obiezione, secondo me. Ma faccio una domanda, ma secondo lei a essere esentati siete voi per via del corpo di norme concordatarie che sono quelle che danno fondamento a quello che lei ha detto, no? Nel senso che non abbiamo mai pagato, quindi perché dovremmo per questa sentenza della Corte di Cassazione? Oppure è il principio generale che deve valere per tutte le componenti della scuola paritaria che sono all'interno del sistema pubblico dell'offerta? Ma per tutte le componenti, nel senso che là dove uno affitta, perché incomodato parte delle sue strutture a delle scuole che nella situazione attuale non possono essere certamente individuate come enti che a scopo di lucro, tutto questo, ma anche se invece della parrocchia cattolica fosse una qualsiasi fondazione, un privato, mi spiego. Però loro la pagano, il primo un ascoltatore ci ha detto noi la paghiamo, mia moglie ha una scuola non cattolica, la paga l'IMU. Dipende che tipo di rapporto di affitto ha con quello, noi non affittiamo, diamo incomodato, e su questo è precisamente, era disposto, pare tutti i governi, tranne il quale quest'ultimo non si può dire che abbia negato, ha taciuto. C'è una linea permanente degli ultimi 3 o 4 governi che diceva non ci sono le condizioni per tassare perché non c'è affitto registrato, secondo non c'è scopo di lucro. Quindi veda che nella sua risposta, seppure non diretta, deriva dal fatto, il fondamento del mancato pagamento deriva dal fatto che ci siano di mezzo proprietà ed enti coperti dal regime concordatario, cosa che per i privati non è. Lei ammetterà che messa così non è una luminosa battaglia di diritto per la libertà, perché se lei mi dice guardi deve valere per tutti, perché tutti coloro che organizzano offerta formativa paritaria, quindi all'interno del sistema pubblico con gli standard elevati che devono essere riconosciuti per averlo e così via, allora deve essere un principio per tutti perché neanche loro ci guadagnano, no, come voi. E allora io lo capisco. Se invece la faccenda deriva da rapporti proprietari e contrattuali che insistono nel perimetro definito, diciamo così, dai beni che hanno un regime particolare del nostro ordinamento, lei ha ragione, per via del sistema concordatario e delle intese, Beh, è dura venderla ai privati che organizzano offerta formativa paritaria, o no? Ma questo è un problema che loro, su cui loro devono fare una battaglia, io sarei totalmente d'accordo. A parte che non mi risulta che quelli che non hanno rapporti di affitto, eccetera, e fanno scuole che non hanno scopo di lucro, se mai dimostrare questo, caro amico, che certe scuole in Italia non siano fine di lucro. Ma questi ci sono degli standard per verificarlo obiettivamente. Mm. Ma io faccio una battaglia mai solo per me, la Chiesa ha mai fatto una battaglia solo per sé. Se ci sono altre situazioni che ripropongono la nostra situazione, siamo contentissimi, la facciano loro come io faccio la mia. Che nelle scuole, nelle scuole paritarie di Ferrara, cattoliche, non c'è nessun lucro. Lei dice non c'è alcun... Non c'è nessun lucro, ma soprattutto non c'è l'affitto. Lei deve tenere presente che l'elemento discriminante è che ci sia fra chi è proprietario, che in questo caso sono parrocchie, e le scuole, ci sia un rapporto di affitto. Su questo noi abbiamo chiesto, non credo, sì, il riferimento ultimo sarà il concordato, ma chi è, che cosa non fa riferimento al concordato in Italia, no? Certo. Mi pare che sia stato un tipo di legislazione che è stata concordata recentemente al presentarsi di questi problemi. Per concludere, Monsignor Negri, se non risponde Renzi, lei ha già detto non paga, ma c'è il rischio davvero di chiusura, cioè come finirà questa storia? Ah, amico mio, non so come finirà. Noi solleviamo il comune, ma come le altre scuole libere in tutta Italia, di centinaia di migliaia di euro, alla quale lo solleviamo obiettivamente. Se le nostre scuole chiudessero, quello che sta peggio non sarà l'arcivescovo di Ferrara, ma il comune che si troverà di fronte a 1600 bambini a cui non so cosa potrà dare, forse una porzione di Nutella. Allora chi ha in mano un'amministrazione deve anche fare i conti non solo con le burocrazie statali, ma anche con le esigenze del popolo. La ringraziamo, grazie, auguri, grazie. Auguri, Monsignor auguri. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara. Caro Oscar, hai capito? 1600 bambini, cosa farà il comune? Forse una porzione di Nutella e niente di più. Sarà, però non no, questo però è il problema di cui discute dell'offerta formativa. Come è chiaro, l'eccezione non c'è l'affitto, c'è il comodato tra cattolici, tra beni coperti dal regime concordatario. Non sì, è un il riferimento e giustamente lui dice: io faccio la battaglia per me, gli altri privati se la facciano per loro. Giustamente, giustamente. Pronto a sostenerla, però dice: se fanno questa battaglia, sono pronto a sostenerla. Comunque, Lucio ci chiama da Bergamo. Buongiorno, Lucio. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Io sono un gestore di una scuola cattolica, una scuola paritaria ormai da 30 anni, come volontariato, perché è una cooperativa di genitori che si sono associati 30 anni fa e hanno un po' ereditato quello che erano le scuole. E paga l'IMU? No, perché noi siamo in uno stabile adesso dei frati che ci hanno ospitato e lo pagano loro comunque per noi, perché qualcuno lo paga, lo paga, certo. Il problema è che le scuole con le rette che hanno e che comunque non riescono a pagare l'IMU. Volevo anche dire sul discorso dei contratti, la GIDE è un contratto comunque nazionale che è firmato da associazioni sindacali. Però scusi un secondo, vabbè, lascia perdere il contratto. Contratti, esatto, sennò il principio per il quale sindacale. Non ci abbiamo i soldi per pagare è un'altra cosa. Però sa? Dice che lo pagano, ma lo pagano dai frati? No, viene pagato dai frati. Ma lei è sicuro di questa cosa? Certo, sì. E perché allora lì lo pagano e a Ferrara no? Sì. Ah, non lo so questo. Perché con ogni probabilità c'è un affitto, non un comodato. No, abbiamo un comodato. Allora, se avete il comodato, secondo la teoria dell'arcivescovo di Ferrara, non dovreste pagare mai. So, quindi... il problema è che quando arrivano le tasse vanno pagate. Il problema è che forse c'è il comune di Bergamo, un po' più. No. Vabbè, comunque no, dicevo che l'importante è che ci sia comunque una libertà di scelta da parte delle famiglie di poter scegliere dove mandare i propri figli, di poter sposare il progetto educativo questa c'è, se non sbaglio, no? Naturalmente c'è una questione però che riguarda il fatto che bisogna avere gli stessi obblighi fiscali avere anche comunque gli stessi, non solo obblighi ed onori. perché onestamente... Sono d'accordo, ma si figuri, io difendo la libertà, quello io lo difendo assolutamente. Io vorrei uno Stato in cui ci fossero più incentivi alla scelta dal basso. La mia idea sarebbe che la dote pro capite della situazione pubblica si desse in mano alle famiglie, le famiglie decidono dove spenderla. Questo si figuri, la mia scelta è il voucher estremo. Detto questo, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che qua ci sono privati che gestiscono paritarie, che pagano l'IMU, poi come nel suo caso paritarie di tipo cattolico che pagano l'IMU e altri, no, la strada maggiore, che dicono noi non lo paghiamo, non l'abbiamo mai pagato, né lo pagheremo mai. E scriviamo a Renzi. Beh, perché scusi, almeno, non è proprio almeno una l'uniformità, situazione. Cioè, o pagano tutti, principio o non chiaro, pagano nessuno. Visto che lo Stato non ha mai principi chiari, almeno come si vede neanche in questo caso c'è un principio chiaro. Potrebbe decidere, lo Stato potrebbe dire, come ovviamente non prendiamo l'IMU dagli edifici pubblici della scuola pubblica, non li prendiamo neanche da tutte le scuole paritarie, poi dopo il buco dei conti, vabbè, lo sistemiamo in un altro modo, però uniformità che non c'è. Alessandro, no, Paolo ci chiama da Pavia, buongiorno a Paolo. Sì, buongiorno, salve. Senta, io sono abbastanza arrabbiato, per parlare esattamente, a sentire certe cose, perché il problema non è secondo me l'IMU che viene pagato meno dalle scuole paritarie. Io chiamo da Pavia, che è una città del nord, non del profondo sud, e per avere la garanzia di un'educazione livellata verso l'alto, quindi a far imparare i bambini, non a seguire l'ultimo della classe, di aver segati professori che non sanno lavorare e non dover dipendere da quelli, di non dover essere in balia di scioperi, mancanza di carte igieniche e altre cose, devo mandare mia figlia a una scuola paritaria. Ah, lei pone un'altra questione, un'altra questione. C'è cioè il livello dell'offerta della scuola pubblica. Pagano su questo. Ah, certo, ha ragione. Ecco, ha ragione. Grazie. Cioè, no, ma è chiaro, lei dice è una questione non tanto di livello formativo, eccetera, ma avere a che fare nel pubblico con gli scioperi. Io per questo sono a favore del voucher estremo, così piena libertà da parte delle famiglie e dei giovani di decidere qual è la qualità che si vuole e le regole a cui si vuole sottostare, si figuri, ma non avverrà mai, perché il blocco della politica e dello Stato prevarrà sempre. Però il nostro ascoltatore ci sottolinea che un problema c'è. Esatto. Vedo che il tema ha appassionato molto, dispiace per Alessandro da Milano, ma se vuole domani ci teniamo il numero da parte, lo facciamo intervenire, perché il tema continua, le scuole. Hai visto che il sindaco di Licata ha ancora dei problemi per gli abusivi? Poveretto. Ma chissà. Serie B, Camorra. Evviva. No, è così. Iniziamo. Ah no, ma è sempre così. Ogni fine campionato il calcio è ricercato, però è ricercato dalla polizia. Questo esatto. È... Dai, a domani. Ciao. Grazie. Ogni mattina, quando accompagno le mie figlie a scuola, ci auguriamo un buon inizio di giornata così.